servo. Yeah, questa è Nasty Job. Alzate tutti quanti il volume a sciavatta. Nei miei video il mio momento preferito è quando mi ricordo di mostrare il terzo dito. Mi vedi disteso, rilassato, sono scaltro. Tu becchi il terzo dito, l'altro tipo a questo ed altro. Ma fratello, ma ci sei rimasto sotto? Che non lo sapevi che c'ho pure il culo. Ha fatto il botto e si è sfondato con un pezzo di merda che c'è morto annegato. Facci shred, no rap, proprio fresh. Finiamo questa roba per la figa e per il cash. Lo mettiamo alla tua bitch come triple di Snash. E non c'è fatto un cazzo se vi fate flash. Sull'Aurelia, con di genero in corto mano. Due di notte e non andiamo piano. Facca le puttane che sono le mano. Vedele sempre lì, non ci fa più strano. È la dura legge della strada. C'è pure chi sta peggio, come vuoi che vada. C'è sempre qualcuno che più da incauto. Ogni giorno il giorno prima qualcuno è morto nato. E su questo non c'è nulla da dire. Non è un'opinione, lo sai che è così. Arbe di Genervo con nuovi stile P. The real life, faccio per chi non va a sentì. Cosa cazzo parli a fare se non hai nulla da dire? È il momento di ascoltare Nasty Job, devi sentire. Ora resta a vedere pure i video su YouTube. E poi nota con piacere che l'Hardcore Squad spigne di più. Scrivi la tua spigni, fallo quanto vuoi. Tanto lo sapete che non siete come noi. Cazzo spigni e fallo più che puoi. Tanto lo faremo sempre più di voi. Traduca il singolare, me ne esco col plurale. Tanto se dico te, per voi è tutto uguale. È proprio tutto uguale, sai perché? Se sangra senti tu e quindi pure te. C'è sempre qualcuno a cui mi sta rivolgendo. Ecco parte del mio tempo come la spendo. Fa sta roba, ancora ci spendo. Se non l'ascoltate sicuro che m'offendo. Orbe se ti offendi, non ce ne frega un cazzo. Lo sai che al mondo non sei l'unico ragazzo. Fa il serio, non sentirti speciale. Non sentirti geniale, che sei pure un po' banale. Cazzo tu mi dici, è sempre tutto male. Zero, zero, donne, no, ho mangiato già fecale. E nonostante questo dico tutto bene. Alzo io le mani per chi mi sostiene. Senti questo sound di Genervo come mena. Chi ne parla male, a me fa solo pena. Senti questo beat, quanto è spinto. Di pure quel che vuoi, ma io ne so convinto. Cosa cazzo parli a fare se non hai nulla da dire? È il momento di ascoltare Nasty Job, devi sentire. Ora resta a vedere pure i video su YouTube. E poi nota con piacere che l'Hardcore Squad spigne di più. ORB con la rima improvvisata. Lo sai che ti sconvolgo la serata. Di Genervo in forma, sta in botta. Faccio un lavoro sporco, un tema che scotta. Non passa in radio, sta patata bollente. Ti spingiamo quello che in giro non si sente. Dai, metti play su nuovi stile P. Che la gente qui vuole ballare, sì. ORB di Genervo in Dolby Surround. Spingiamo a vita, le KL Sound. Zero serata gay e niente bunga bunga. Al massimo ho rubato le pizzette alla Serlunga. E cosa vuoi che te dica frate? A me non me ne fate proprio un cazzo di te. De quello che dici, de quello che fai. De quello che ti mangi su cose che non sai. Se sei Nasty Job e non mi fermerai. Forse solo dopo allora capirai. Questa track non faccio proprio, ma bye bye. Perché a fare meglio non ci riuscirai. E ma cos'è? Non hai smesso di parlare. Credevo che ti eri andato a suicidare. Questa è per chi crede di saper rappare. Critica e sparla ma non lo sa fare. Cosa cazzo parli a fare se non hai nulla da dire? È il momento di ascoltare Nasty Job, devi sentire. Ora resta a vedere pure i video su YouTube. E poi nota con piacere che l'Hardcore Squad spigne di più.